Con Giancarlo Zappoli per fare un bilancio dell'annata cinematografica 2018 e per sapere quali sono i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Giancarlo, ben trovato. Che ne dici di questo anno? Quest'anno a giudicarlo dai festival bisogna c'è una prospettiva, cioè tipo Cannes, che anche quest'anno non ha esaltato, mentre Venezia ha dato un importante contributo, pur prendendosi quelle libertà con le reti varie Netflix e company che tante polemiche hanno suscitato. In generale ci sono state delle buone cose e poi c'è una marea anche di inutilità, ma quella è la censura di mercato che a volte non ci fa arrivare film che vorremmo vedere e magari vediamo giusto appunto solo i festival e ce ne fa vedere altri che, di cui faremo volentieri a meno. Tra le tue preferenze? Allora, non le metto in ordine in graduatoria, va Ok, bene? ok. E non dico, ma non per snobismo, perché se c'è una roba che mi dà fastidio nell'ambito critico dello snobismo, non dico Bohemian Rhapsody, non dico Roma. Così dice, vabbè, grazie, lo sapevamo. Perché magari ne viene fuori uno tra quelli che dico che magari vale la pena di andare ancora a vedere se lo si è perso. Beh, allora muoviamoci dagli italiani. Sulla mia pelle, per il motivo del film, lasciamo a parte le polemiche di cui dicevamo, no? Netflix e compagnia bella, ma per il motivo del film, perché nessuno mi toglie dalla mente che la riapertura da un certo punto di vista del caso, cioè con le dichiarazioni di chi era presente, che sono cambiate rispetto al passato, è anche nata grazie Sì. al film. Ma soprattutto per quel fatto illegale, ma significativo, delle proiezioni organizzate da gruppi spesso di giovani, insieme per vedere un film che trattava un tema sociale, ma che si tendeva anche a dimenticare altrimenti. Per cui è su quel versante lì che mi è sembrato un film importante, Sì. Sì. al di là dell'interpretazione, al di là del dover fare un film in estremo equilibrio, perché la sceneggiatura non poteva permettersi di dire è andata così Sì. Certo, dal punto di vista del testaggio, perché rischiava querele. col processo E ancora in però corso. lo fa dire da un corpo, lo fa dire da una dimensione anche di spazi, cioè riesce a dire tutto nonostante. E quello è uno. Dopodiché rimaniamo sempre in Italia, Dogman, anche questo al di là del premio miglior attore all'Oscar, del premio miglior attore, scusami, agli Oscar, del premio miglior attore a Cannes, del premio miglior attore del cinema europeo. Anzi, gli Oscar c'è un perché, l'ho detto, secondo me è stato sbagliato mandare come film rappresentativo dell'Italia agli Oscar, perché non per fare l'Andreotti del tempo, no? Che panni sporchi si lavano in casa, ma perché non è il cinema che ha l'Academy. Può interessare di più, ma va bene, absit. Mentre invece c'è una grande capacità di raccontare anche lì, secondo me, di degrado, mantenendo però questa lontana luce di innocenza e soprattutto non andando ad affondare nella violenza. Cioè, se uno va a leggere i verbali delle dichiarazioni del Canaro, c'era da fare un film per cui so in confronto non era niente, mentre invece qui ci si tiene indietro da quel punto di vista, perché quello che si vuole descrivere è un contesto più che non un fatto specifico. Sì. E questa è la forza, a mio avviso, del film, oltre alla già detta interpretazione. Dopodiché, affari di famiglia, come si fa a non dire di Coreda? Coreda che ormai è diventato il portavoce del cinema giapponese, che non è che vediamo tutti i giorni nelle nostre sale, ma grazie a una dote che pochi altri hanno, cioè quella di riuscire a diventare quasi un classico, come è successo ad altri come Kurosawa, come Ozu, in vita, ma senza essere elitario. Parla a tutti. Affari Famiglia è un film che arriva anche a un pubblico che non ha mai visto un film giapponese e che riesce a leggere lo sguardo profondamente umano nel rapporto tra ciò che è legale e ciò che è morale all'interno delle dinamiche di un gruppo familiare. E questo mi sembra un grosso risultato. perché Girl, perché Girl anche qui, al di là dei premi ricevuti dagli omaggi della critica eccetera ufficiali, c'è la grossa capacità di entrare attraverso un attore che si fa attrice, ma che addirittura conserva il proprio nome, perché la cosa che a me ha colpito tantissimo in questo film è quando a un certo punto lui gioca col fratellino, il fratellino non ne può più, a un certo punto lo chiama Victor, e Victor è il nome dell'attore che interpreta Lara, per cui è quasi come se si fosse messo in gioco personalmente, non solo come interprete, con in più una grossa capacità di non cadere mai nell'eccessivo, ma soprattutto di descrivere anche un rapporto con la figura paterna. A me è capitato di presentarlo a un gruppo di giovani e di dirgli: guardate che questo film si chiama Girl, ma si poteva anche chiamare Father, perché quando si è genitori si sbaglia sempre, comunque, anche quando lo si fa a fin di bene, ma questo film riesce a dirlo con uno sguardo di profonda attenzione, di profondo rapporto con i personaggi che mette in scena, che diventano persone, non sono più personaggi. Sì. E ultimo, forse film poco visto, ma che secondo me merita attenzione, è Don't Worry di Gus Van Sant. Perché in Don't Worry Van Sant riesce a lavorare su un personaggio realmente, realmente esistente, un fumettista fuori da qualsiasi rispetto per chiunque, tranne, lui diceva, per quelli che erano nella sua stessa condizione, cioè su sedia a rotelle in seguito a un incidente e quasi impossibilitato anche a disegnare, doveva stringere i due pugni per poter tenere la matita. Ma poi perché fa lavorare Woody Harrelson in rapporto con un fantasma, perché il progetto era nato con Robin Williams e più volte ci erano arrivati vicini a realizzarlo e poi si erano fermati. E ora Woody Harrelson è come se dovesse raccogliere quel testimone senza imitare i modi del modello, ma dandogli in qualche modo, in qualche misura, testimonianza. E secondo me riesce a farlo con una grande abilità. Bene, allora ci hai dato i tuoi 5, Giancarlo, è stato un piacere. A questo punto ci salutiamo, ci diamo appuntamento al più presto e auguri. Auguri anche a te. Alla prossima, ciao. Alla prossima, grazie.